voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese. Quarta puntata. Uscii con Lario in quei giorni, un pomeriggio e una sera. Il pomeriggio andammo insieme in bicicletta a San Mauro. Doveva portare dei ferri a un cliente. Era un sabato perché Lario era libero. Ero libero anch'io perché Linda quel giorno mi aveva detto: voglio starmene sola, va via, ci vediamo domani. Lario capiva che qualcosa era successo e quando a Sassi gli feci una fuga mi tenne dietro zitto zitto e non chiese il perché. Mi sfogai come un matto a sudare in quel fresco e provare se ancora ero in gamba. Così, tra Lario che inseguiva e la strada che avevo davanti, mi lasciai dietro quel pensiero e la giornata, e già pensavo all'indomani. A San Mauro ci mangiammo del salame seduti sull'argine, guardavamo le colline scure, dove Lario diceva che suo nonno era andato a caccia con Don Bosco. Ma a me piaceva di più il Po, e me lo godevo, e non dicevo che quell'acqua era passata da Torino. Così il sole andò sotto e Lario disse: se io sapessi suonare la chitarra suonerei giorno e notte. Io no, gli feci, non c'è mattina che non studi una mezz'ora. Non ti sente nessuno, mi dice. E che cosa ti rende? Intanto al freddo tornavamo verso casa. Sai, mi dice, alla Tampa si sono lamentati, perché non vieni più con noi? Lario è uno che parla tranquillo, poi sta zitto e ci ripensa. È testardo. Non mi dirai che vai da Amelio anche di notte? Di notte giro per Torino. Stavolta ero allegro. Vado a spasso suonando e cantando, gli dico. Poi faccio il giro col cappello e prendo i soldi. All'osteria ci andai quella sera con Lario e chitarra. Non mi aspettavano e non fecero baccano più del solito. Quasi tutti tornavano allora da ballare. Ci fu chi mi diede un pugno sulla spalla e diceva: se c'eri tu suonavi meglio di quei tali. Ci sedemmo a discorrere. E la lite era tra chi nel ballare sta a sentire l'orchestra e chi nemmeno si accorge che suonino. Li lasciai litigare e alla fine dissi che anch'io quando ballo mi importa soltanto la donna e la musica è meglio sentirla da fermo. Intanto abbracciai la chitarra e giocavo di mano e ascoltavo i discorsi. Non l'avrei detto il giorno prima che mi sarei seduto ancora a quel tavolo e pensavo che in questo ero come Amelio, che era venuto qualche volta all'osteria per passare una sera disoccupata quando Linda non era con lui. E stavo zitto come lui, ma ci pensavo e lo vedevo uscire di casa con le grucce, incamminarsi, attraversare, arrivare al negozio. Avrebbe detto questa sera, fermo sull'uscio per non fare lo scalino. Avrebbe chiesto a Carlottina: dov'è Pablo? Saremmo entrati all'osteria come stasera e mi vedevo la sua faccia farsi smorfia, la sigaretta penzolare e allungare la mano e menarmi una nocca sul mento come un cane. Fatti furbo, avrebbe detto, va via. Poi pensavo se Linda fosse stata con me questa sera. Lui non l'avrebbe mai portata all'osteria in mezzo a noi. Mi venne rabbia di pensarci anche stasera e dissi agli altri che giocavano a scopa: Pablo a sete! Lario e Martino mi ascoltavano appoggiati alla finestra. Suonai prima qualcosa di svelto per farmi la mano. Venne il vino. Ne bevemmo noi tre. Chelino disse sulle carte voltando la schiena: fate bere anche noi. Io la chitarra non l'avevo più toccata da quel giorno di Amelio. Ma sapevo già tutto quello che avrebbero detto. Sapevo che quando si sarebbero messi a cantare qualcuno dal tavolo avrebbe gridato: o si gioca o si canta. Poi Chelino avrebbe detto la sua, poi gli altri, poi sarebbe venuto ancora del vino. Sapevo già tutto. Avrei voluto essere già sbronzo e buonanotte. Dopo un po' che suonavo li ebbi tutti al mio tavolo, pensavo a Linda e alla sua idea dell'orchestra. Se gli chiedessi 4 soldi a questi qua mi darebbero il fiasco sul cranio. Non è un mestiere che si paga, la chitarra. Non è niente, è un passatempo che mi prendo quando non c'è Linda. Mi sentivo una pena come un brutto pugno nel fiato e suonavo per farla passare e bevevo per farla tornare e avrei voluto alzarmi in piedi, uscire dal chiuso e camminare fino a giorno. Ma la strada più corta era ancora sbronzarmi. Tutti parlavano, vociavano e tacevano soltanto se attaccavo un motivo che nessuno sapesse. Ascoltavano un momento, poi mi dicevano la loro. Solo Martino, che è un ragazzo, stava contro la finestra e ascoltava per tutti. Quello è un povero diavolo che farà la mia fine, dicevo. Chissà chi sarà la sua Linda. Ma gli vidi la mano sul mento dalle dita pesanti e ancor nere di tornio e capii che era un altro destino. Se nasceva al mio posto, dicevo, era lui che toccava. Ora è fatta. Alzai gli occhi e il bicchiere e gli feci una smorfia. Come Amelio con me. Lui mi rispose con gli occhi. Nessuno parlava di Amelio. Nessuno era più andato a trovarlo. Non mi chiese nessuno se l'avevo visto. Mi scherzarono invece su Linda. Nessuno sapeva il nome, ma l'avevano vista con me in fondo al corso. Fui io che dissi, lascia andare. C'è nessuno che sappia dove cercano un buon chitarrista? Noi l'abbiamo per niente, disse Chelino. Chi vuoi che spenda per sentire una chitarra? Sentirglielo dire mi fece una rabbia. Fossi un Napoli, disse qualcuno, potresti andare a Mare Chiaro. Ma che suoni vi piace? Fece Lario di brutto. Quando Pablo non viene gli reggete la vita. Io lasciai che gridassero, sapevo cos'era. Mi misi invece a pizzicare tarantella tarantella e dopo un poco tutti mi venivano dietro. È bello questo del suonare. Vedi la gente che non vuole e la tiri lo stesso. È anche bello se smetti, ti dicono dai. Poi fai finta di averne abbastanza. È un mestiere da comico. Ma c'è sempre qualcuno che dice di sì, che gli piace sentire. Poi nemmeno ti ascolta e pensa a tutt'altro. Se non lo prendi in giro subito stai fresco. Ci dormii sopra e l'indomani, quando Linda comparve sull'angolo, non ero tranquillo. Quasi quasi era meglio San Mauro. Ma la vidi contenta e mi rivenne il sangue in corpo. Linda mi disse che Lubrani ci aspettava a colazione. Come faccio? Mi aspettano a casa. Allora Linda mi trattò come un bambino. Stai fuori la notte, mi disse. Non puoi stare quest'oggi? Io l'ho fatto per te, vuol sentirti suonare. Ma non è mica un'osteria a casa sua. Linda disse, sei stupido. Poi mi disse che Lubrani aveva in casa chitarre e ogni sorta di strumenti. Telefonammo al bar del corso che avvertissero a casa. Mentre si apriva l'ascensore dissi a Linda, gli è passata la sbornia? Stai zitto, mi fece. Non c'è mica altra gente. Ma che? Venne a aprirci una bella ragazza che disse s'accomodi. Ci portò in quella stanza di prima. Mi tornò in mente tutto quanto. Era impossibile. Non capii perché Linda, che con Lubrani si dava del tu, stesse ancora con me. Linda andò al finestrone, era largo come una vetrina e guardava sui tetti. Lubrani venne, era vestito chiaro chiaro. Non fossero stati quei baffi e quegli occhiacci, sembrava un giovanotto anche lui. Bevemmo il liquore, mangiammo sul vetro. Linda mangiava e raccontava, lui rideva e mangiava. Quell'altra ragazza non si fece vedere. Tutti i piatti erano già apparecchiati. Volevo chiedere di Lili, poi mi trattenni. Stamani Lubrani era meno bestione. Ascoltava anche i miei discorsi, passava i piatti con garbo. Non si parlò della chitarra. Parlammo invece che doveva andare a Genova in quei giorni e Linda gli disse con l'auto. Alla fine del pranzo mi chiamava Pablito e ci disse, quest'oggi si fa una scappata? Così salimmo sulla lancia e ripeteva, con due ragazzi come voi mi sento un altro. Andiamo ai laghi da Vigliana, disse Linda. Andammo ai laghi. A metà strada nella nebbia dissi a Linda, è su quel paracarro che vi siete ammazzati. Lei fece una smorfia. E la chitarra? Disse subito. Ne parlò con Lubrani che ascoltava e guidava. Ne troveremo sul lago, non c'è che chitarre. Senza voltarsi poi mi disse, so che voi musicanti non volete cambiare strumento. Linda disse, sciocchezze. Io quella strada la facevo, in bicicletta, l'anno prima. Scendemmo in piazza e ci guardavano. Entrammo al caffè con Lubrani davanti e io pensavo a San Mauro. Lubrani volle una bottiglia di Barolo. Avevamo salito una scala di legno e si stava di sopra in un salotto coi tendaggi dove c'era un sofà e il caminetto. Non si sentiva più le voci della sala da basso. Era ancor presto, ma sembrava che piovesse alla finestra. Si intravedeva un grosso quadro sopra il muro di una donna vestita da Napoli che pareva una mora e rideva e aveva l'aria di ballare mano al fianco. Linda disse, chiamiamo perché accendano il fuoco. Mentre il ragazzo si voltava a guardarci, noi bevemmo e Lubrani mi disse, tu sei giovane, Pablo, e non sai che tre nasi sono quelli che ci vuole per bere il Barolo. Non lo so, disse asciutto. Ma com'è buono, disse Linda. Quando il ragazzo se ne andò mi sentii meglio. Invece Linda passeggiava per la stanza e sembrava ballasse e teneva il bicchiere levato. Poi si buttò sul seggiolone senza spargerne. Adesso Linda ci racconta qual è il vino da bere facendo l'amore in un giorno d'inverno. Sono cose che solo le donne capiscono. Linda in un giorno come questo, con la neve. Linda buttò la testa indietro e disse pronta: quel che si ha sotto mano. Ah no, non ci truffi, rispondi. Se il Barolo lo bevono in tre, disse Linda, beviamo il Barolo. C'eri già stata, chiesi a Linda in questo buco. Alzò le spalle. Lubrani mi disse: Linda è stata dappertutto. In quella luce faticosa dei vetri levavo la testa e vi vedevo sempre il quadro. Adesso i riflessi del fuoco gli davano un'aria più ballerina. Linda guardò dove guardavo e sobbalzò. La chitarra, suonammo e comparve il ragazzo. Lubrani gli fa: una chitarra. Quello aspettava e non capiva. Vacci a cercare una chitarra, ci sarà una chitarra. Ci guardò spaventato. Voglio suonare la chitarra, gridò Lubrani incarognito. Dovette uscire sulla scala per spiegarlo alla padrona. Linda batté la sigaretta e mi guardò. Le vidi il riflesso del fuoco negli occhi. Non feci a tempo che rientrò Lubrani. Era ancora presto e venne sera in un momento. Era bello guardare la fiamma. Stavo in piedi vicino alla tenda, sentivo il freddo che filtrava e mi pareva di essere fuori e pensare alla scena di quei tre che bevevano. Ma Lubrani parlava anche a me. L'aveva ancora con la storia del Barolo. Viene un'età che fa piacere stare insieme a voi altri, chiudersi insieme e stare in tre dentro una stanza. Fate pure, bevete allo stesso bicchiere, diceva. Sono giochi che piacciono, si sta insieme e si ride una volta. Linda rideva e gli diceva: bevi tu. Gli passava il bicchiere, Lubrani beveva, si sporgeva e beveva per non perdere la goccia, poi glielo dava con l'inchino che si fa per un ballo, e anche Linda beveva ridendo. Tu, Pablito, ci guardi dall'alto, disse Lubrani. Tu non sei come me, e si toccava la testa. Conosci Linda, sì o no? Linda è peggio del boia, diceva. Lei ci sotterra tutti quanti, vecchi e giovani. Linda di bello che ha dei gusti da signora. Linda si alzò e mi venne accanto alla finestra, mi buttò le due braccia sul collo e mi disse sugli occhi: non vieni a sederti? Fece il gesto di farmi ballare. La seguì, ci sedemmo e Lubrani parlava, ma Linda mi mise la bocca vicina. Poi rimanemmo là, seduti nell'ombra. Lubrani disse molte cose bevendo il Barolo. Gli ballavano gli occhi alla fiamma, ma non era ubriaco. Gli piaceva proprio vederci abbracciati e si leccava le labbra. Discorreva con noi quanto è bello essere insieme in libertà dentro una stanza. Questi alberghi d'inverno in provincia, diceva. Posti tranquilli, posti onesti. Ma che Venezia, che Riviera. Qui si gode la vita e si beve. Ah, Pablito, va in tanta salute, ma bisogna saperlo. Finalmente arrivò la chitarra, Lubrani volle del caffè per gustar meglio. Venne il caffè e venne del vino. Accendiamo la luce? Non c'è bisogno. Non mi mossi. Accordai la chitarra. Linda si mise un po' di scosto e mi ascoltava. Suonai difficile, da studio. Quell'accidenti mi capiva. Dopo un poco fu lui che mi diede la nota. Io stavo attento a non farli ballare. Sentivo Linda che muoveva il piede. Ogni pezzo, finito, dicevano bravo, e Lubrani allungava il bicchiere. Hai talento, mi disse nel buio. Feci conto che Amelia stesse a sentirmi. Le variazioni sulla fiamma erano facili. Ogni tanto coprivo un passaggio. No, diceva Lubrani, vuoi fregarci? Come succede? Dopo un po' la chitarra la prese lui. Senza impegnarsi si scaldò le mani. Mi diceva, sai questo, sai quello? Provò la Paloma, provò Cielo e Mare. Ma la mano era pesante, si sentiva. Linda disse, adesso smettetela. Così finimmo quel Barolo e uscimmo in piazza con le stelle. Era inteso che avremmo cenato sul lago. Dopotutto domenica, dissi. Facemmo in macchina al giro del lago a passo d'uomo. Linda diceva, non a me, quanto è bello. Anche Lubrani si voltava a vedere le canne e la nebbia sull'acqua. Faceva freddo, questo sì, c'era vento di neve. Lubrani guidando parlava di Genova. Sai chi vado a vedere? E disse un nome, come fosse Ferrero o Carletto. E Linda subito mi uscì di mano, gli batté i pugni sulle spalle e gridò, anch'io! Perché no? Disse lui, si va tutti. Parlarono molto di questo Carletto e cenammo. Poi tornammo a Torino e finimmo la notte al Paradiso. In quei giorni, ricordo, mi svegliavo di colpo. Pensavo a Linda e mi pareva di avercela accanto. Ma poi stavo nel letto, occhi chiusi, e pensavo a tutt'altro. Mi pareva di averci un grosso affanno e di essere come un bambino, più solo di un cane, aver fatto qualcosa di brutto e di senza speranza. Non avevo più scampo, non osavo sentirmi. Avrei voluto non svegliarmi e morir lì. Neanche l'idea che se un giorno avessi avuto Linda accanto l'avrei presa mi bastava. Mi facevo pietà. Questo è il fatto. Ero come un bambino che mettono nudo sul tavolo e poi mamma e sorelle se ne vanno di casa. Nascondevo la testa e mi affannavo. Credevo che fosse la stanchezza. Quasi sempre, a non muovermi così da quel letto, mi immaginavo di essere storpio come Amelio e non potere uscire mai più, come quando si prova a chiudere gli occhi e a fare il cieco. Poi mi sentivo camminare sulle grucce mezzo morto. Mi toccavo le gambe e pensavo a Linda, pensavo a quel giorno che Amelio s'era tutto scoperto. Cosa ho fatto? Dicevo. Avrei spaccato la chitarra contro un muro. Avrei voluto essere un altro e sparire. Andammo a Genova un mattino, in macchina. A casa dissi che ci andavo per lavoro, per conoscere gente. Qualcuno voleva sentirmi e la chitarra è questione di farsi sentire. Perché non prendi la chitarra? Mi dissero. È un brutto viaggio, mi diceva mia madre. Mi misero in tasca un biglietto da 100. Mi vestii grigio con la sciarpa e andai felice. Linda era rossa e raffreddata. Viaggiò sepolta sotto un mucchio di coperte. Io stetti davanti con Lubrani e gli diedi una mano alla guida. Di tanto in tanto mi voltavo e gettavo un'occhiata. Lubrani disse: non la perdi, stai tranquillo. C'era un bel sole e un freddo asciutto che facevano cantare la strada. Cantavo anch'io sottovoce e alla prima fermata pagai il caffè. Risalendo andai dietro con Linda. Ci aspetta Carletto? Gli chiese. Puoi dirlo, è in bolletta. Questo Carletto era un attore che un giorno aveva lavorato nel teatro dove Linda portava i costumi. Doveva essere giovane, simpatico e in gamba. Lubrani diceva: chi è troppo furbo si fa fesso. Io chiesi a Linda sottovoce: quanta gente conosci? Tanti, mi disse. Io non perdo nessuno, sono amica di tutti. Stavo attento a non farle capire che era il viaggio più lungo che avessi mai fatto. Chi avevo visto, conosciuto finora? In che posti ero stato? Certi giorni, a pensare quanta gente c'è a questo mondo, anche poveri diavoli che nessuno conosce, mi veniva una voglia di andarmene a spasso, di saltare sopra un treno che quasi gridavo. Che chitarra, dicevo, che sale tabacchi. Far la vita di Amelio, la vita di tutti. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.